massimo saliva a 30, come era a Calla, però non distorceva il re, non saliva il VAT. A 140. K. No, no, questo non è 140. Questo è 430. Sto controllando. Non schiaccio 80, sarà 50, poi si stabilizza, non ho mai fatto. Vabbè, in direttiva non è la sua antenna, sicuramente anche per quello. No, è a posto, a posto. Ho 140, aspetto. Lo teniamo di scorta. Che ti sei fatto attendere? Mi sono fermato perché stavo parlando con Giampaolo, qui è arrivato il QRM, non lo sentivo più, là mi sono fermato per parlare con lui, poi stavo tornando a casa e ho sentito a te. Giappa, giappa, ho capito, tanto gli andrà bene, gli andrà bene, non ci stanno problemi, ok, ok. Sono qua al computer, stavo ascoltando poco fa, sono entrato a salutare, a chiedere un controllo, che mi hanno portato una 240, buonissime condizioni, vado a fare una taratura sulla LC, se hanno già portato via. E a te la faccia di uno sui, detto guarda. Come regolazioni, come quelle cose, si possono fare, capito? Ma quando devi fare allineamenti, cambiare dei componenti, ci vuole il saldatore, la stazione saldante, dissaldante, allora mi appoggio a Fabrizio. Ma per fare delle regolazioni già solo le mette le mani, non c'è problema. L'ho provato e Giulio mi ha detto la tua modulazione bella, forte, corposa, l'ho lasciato così, ma ho preso riferimenti che ci ho scritti, capito, me li ho scritti, perché quello là, cosa apro? Se apro quello là è tutto a zero, non riesco a capire come esce quella radio, perché esce così e non è mai stata toccata, allucinante. Che poi con Mike King si deve saper regolare sulla tutti, c'è un pigmellino li distorce la radio, invece se la lascia normale non li distorce. No, ma infatti non l'ho toccata assolutamente, l'ho lasciata così perché almeno è tutto a posto, almeno rimane stabile, non c'era da toccare niente, capito? Infatti, com'è lasciarla così? Tanto qualcuno ce l'hai già fatto, quindi c'è l'uno e l'altro. Sì, infatti, almeno è pulita, sono corso la 250, non c'è stazionaria, però. Stazionario zero con questa direttiva, roba davanti, con la correttore disinserito, la T250, stazionario zero, proprio tutto, sì, 0-0. Andrà bene, dai, che vado a mangiare qualche cosa che sono affamato, mi avvaggio. Poi sono tornato tardi a casa perché mi sono lavato la macchina, invece di tornare a casa mi sono fermato lì e mi sono lavato la macchina, me l'ho bella gingillata. Ma domani mi sa che il tempo non è bello, io infatti volevo lavorare il fiorino, però l'ho lasciato così, me lo lavo lunedì, almeno fuori, dai. Dentro già è a posto, non ci sono problemi, l'importante è che sia a posto dentro, poi ha piovuto, lascia stare così, no, noi abbiamo dentro la pizza, ma si arriva alle 8:30, massimo 9:15, anche io sto mangiando, va bene già, dai, no, non ti trattengo, ci sentiamo dopo, stammi bene e alle prossime, la radio va bene questa, sì. Va bene, ci sentiamo dopo. casomai, se non guardo mai la di Filippo, la faccio compagnia a mia moglie. Che ci sentiamo in radio, va. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ah, se ci sei proprio, se noi siamo già arrivati. Ma perché non avete più? Ehi Gianni, ero al bar. Siamo usciti adesso, ne sto smontando tutto dalla macchina. Ciao anche a Claudio. Ciao Marco, e alle limite sentiamo l'opposto si sente, non c'è problema, già sono le 9. Sto scherzandomi Marco. Ehi vabbè, no, eravamo davvero al bar comunque, siamo vicino a casa, ma per completare l'uscita, adesso tolgo tutto, se no spaccano il vetro e tutto quanto. Togli tutto. Ok, buonanotte, oppure a dopo, là. A dopo, ciao Marco, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao.